solo, da solo. Cos'è che mi ha mollato il coro? Io ho mollato l'oro. Chilometri in salita in 500, zero servo, sterzo, tempo perso. Stress sputando cineroni nei carrelli insieme a tutti i tipi di jackass. Quiete dopo scisma e nefrosisma, effetto prisma. Cristiani virano, ma perché? Ne barge far west. Chi bacchettone, Kare Krishna, Merry Christmas, sebe. Spare perso pellegrino dentro l'abbazia. Leggendo pusta, asando vino, tanto il resto un'abbazia. Risse sopra l'albero della cuccaglio, magna magna. Tutti in imbarazzo come donne incinte in Spagna. A sue fatti alla roia con marchi sopra il collo, sindrome di Stoccolma. Un'orma sopra la tua forma, monarchi senza volto, cazzi vostri, figli della fabbrica dei mostri. Eisenhower fumava giù in altre galassie, raccontando balle, schiacciando power, scrivendo il nostro fatto. Laboratori dentro un'aria, ma senza i fuori di demetrio, strato spunto a capo. Cerca nei sette mari, lo se ne dove come. Occhio al grande fratello, c'è solo Taricone. Aspetta e pesta nome, la gente vuole il gatto dentro il sacco. Beh allora fottetevi col TG4. Uscite Corsera, ascolta e cadi dalla sedia. Avant pop rap, siamo noi il media. Porta la conoscenza che vuoi, ma cos'è falso se tutto ciò che sai è falso? Bruciato Corsera, ascolta e cadi dalla sedia. Avant pop rap, siamo noi il media. Porta la conoscenza se vuoi, ma cos'è falso? Tutto ciò che sai è falso. Ho riflettuto con me stesso per momenti eterni. 2002 ci ha resi schiavi dei ponti moderni. Taglio 500, Epsilon due barre, Pepsi con due barre di Nestlé. Contente mandrie. Un 19 che affonda quando l'amico lo colpisce. Un 19 tragedia, cazzoni con bandiere, stelle strisce. E il panorama di rincoglioniti sopra panorama. Carta non inodorava, unica nota sana. Dalle facce di Marte, vera fa si sbarco sulla luna. La mia mente parte e gli sbirri con 180 carte in più. Sponsorizzate dai dentisti, i veri terroristi sono ben visti. Forte Italia, facci luci di Cerone, tese da spine da balia. Siete in balia ad un coglione che sbrama, sparatoria ad ogni potenza. Fuori di via extra, direttori d'orchestra muti, masso in lontananza. Fa falso e vero, non c'è più distanza. Voglio farmi curare, ma non so chi c'è di stanza. Buonasera, dottore. E trovo Alberto Lupo, non so come mai la chirurgia fa miracoli. Bruciato Corsera, ascolta e cadi dalla sedia. Avant pop rap, siamo noi il media. Porta la conoscenza che vuoi, ma cosa è falso se tutto ciò che sai è falso? Bruciato Corsera, ascolta e cadi dalla sedia. Avant pop rap, siamo noi il media. Porta la conoscenza se vuoi, ma cosa è falso? Tutto ciò che sai è falso. Bruciate tutto, fate un cazzo di casino. Vi stanno solo mentendo. È tutto dentro di voi. Spara 06.